stai fuori. Ho chiuso il cuore in una stanza per non far entrare dolore. Il tempo a mille strade, con viaggiatori spersi, all'inutile ricerca dei loro universi. Io volo libero. Sorvolo i colli degli amori sbagliati, tra prati rimedi, sete e letti ammaccati. Io volo libero. Dipingo rime nel mio cielo a colori, sono il poeta che disegna gli umori. Questa marcia ipocrisia, da queste storie trasportate e perse in canzoni, vagone, senza un capo stazione. Io volo libero. Sorvolo i colli degli amori sbagliati, tra prati rimedi, sete e letti ammaccati. Io volo libero. Vieni con me se vuoi ascoltare i colori, e con le note vivi giorni migliori. Non stare fermo, aspettare il domani, te vieni qui e lascia andare le ali. Che c'è più gusto a guardare tutto dall'alto, lasciare a terra il dolore che hai dentro. E da quassù che dai valore ogni cosa, coccolato questa nuvola rosa. Apro le ali e volo via, apro le ali. Da questa marcia ipocrisia, da queste storie trasportate perse in canzoni, vagone, senza un capo stazione. O volo libero. Sorvolo i colli degli amori sbagliati, tra prati ridi, siete letti ammaccati. O volo libero. Io volo libero, io volo libero, io volo libero.